L'onorevole Davide Caparini della Lega, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. L'onorevole Caparini fa parte della commissione Vigilanza Rai, anche responsabile, credo, del partito per tutte le questioni Rai. Questa storia che non volete, cos'è? Non volete appoggiare le nomine? Noi parteciperemo al voto, sì, al voto con i vecchi criteri, in quanto tutti blaterano di una politica che deve fare un passo indietro, e mi riferisco ai partiti. I cittadini esigono che la politica invece faccia un passo indietro dalla gestione della RAI, e poi infine fanno le nomine. Fanno le nomine. Avete partecipato anche voi in passato, cioè, c'era per esempio un membro del CDA, la Bianchi Clerici, era in quota Lega, tanto che sì, credo si era candidata anche come sindaco. Avevamo partecipato con un progetto chiaro. Alla fine di questa lunga esperienza abbiamo verificato, valutato, ho toccato con mano che non è possibile modificare la RAI, quindi non è possibile arrivare a quello che noi speravamo potesse essere realizzato, ovvero una privatizzazione, contestualmente una RAI di servizio pubblico. Quindi più, cioè, secondo lei va privatizzata la RAI? Andrebbe. E quindi una volta che abbiamo valutato che non ci sono state alternative, e quindi la RAI o fallisce, perché così come sta andando la sua gestione anche economica, purtroppo sarà destinata inevitabilmente a fallire, oppure viene deve essere privatizzata. Cioè, secondo lei la RAI così com'è fallisce? Se non viene... Non c'è ombra di dubbio, o fallisce, o come già in tempi di Prima Repubblica accadeva troppo frequentemente, verrà chiesto ai cittadini di ripianare i suoi debiti. E questo significherebbe, che ne so, l'ennesimo aumento del prezzo della benzina, e finché viene chiesto per aiutare l'Emilia Romagna, io sono assolutamente d'accordo. Si tratta di per la RAI, capisce bene che pensavo ci sarebbe stato l'aumento del canone della RAI, perché lei sa dove voglio arrivare, no? Guardi, l'aumento del canone della RAI diciamolo però, perché le devo fare questa domanda: con che credibilità l'onorevole Caparini fa tutte porta avanti le posizioni della Lega sulla RAI, legittime eccetera, quando lei stesso da anni porta avanti una campagna aperta, manifesta, mettendoci la faccia, dicendo: io da anni non pago il canone della RAI, anzi e invito tutti a non pagarlo. È proprio un indice di credibilità, al contrario di tanti politici che magari quando sono all'opposizione inneggiano a non pagarlo, e poi quando entrano in maggioranza scorrono di nascosto. Lei invece sia che sia in maggioranza che in opposizione, lei il canone della RAI non lo paga, sia chiaro. A maggior ragione, visto che rivesto un ruolo pubblico, è giusto che mi assuma fino in fondo le mie responsabilità e anche ne paghi le conseguenze, perché sappiamo benissimo che non pagare il canone RAI Infatti sanno tutti il suo indirizzo. Davide Caparini è un evasore fiscale. Sì, cioè, sì, io ho dato tutte le mie coordinate, come qualsiasi cittadino che, seguendo la norma di legge, può effettuare la rinuncia al pagamento del canone RAI e poi mettersi a disposizione di Equitalia, ma non sono per il suggellamento. Il suggellamento, appunto. Non sono mai venuto a mettere il sacco di juta al televisore. Esatto, dato che è una questione, una cosa veramente ridicola e antiquata, a maggior ragione il mio comportamento palesa il fatto che siamo di fronte a uno stato mastodontico che non burocratico. Ma cioè sono venuti mai a bussare alla porta o no? No, le arrivano a casa i bollettini, immagino. Lei no, non neanche, paga. L'unica cosa sono le sollecitazioni a pagare un nuovo canone RAI, ma lo Stato non ha nemmeno la forza di esigere quello che teoricamente dovrebbe esigere. Ma è incredibile, Befera forse ci sta ascoltando, qualche funzionario di Equitalia, sappiate che state parlando. Caparini, onorevole, non paga il canone della RAI, da anni lo dice, perché non vi occupate di lui? Befera sa benissimo, anzi l'ho più volte sollecitato a riorganizzare la sua amministrazione nel rispetto del codice del contribuente, e quindi anche in questo caso evitare a chi fa l'obiezione fiscale come me di essere destinatario di tante lettere di rinnovo abbonamento, invece di ottemperare a quello che lo Stato dovrebbe fare, ovvero il suggellamento. Comunque lei non dice, non prova vergogna comunque a dire no, porta avanti le richieste della Lega sulle nomine CDA, anche se non pago il canone. È una battaglia di civiltà, mi scusi. Qui si tratta di fare rispettare un contratto di servizio tra i cittadini e lo Stato, che versano oltre 1.700.000.000 in anno e che si vedono ogni puntualmente e costantemente presi per i fondelli. Allora, questo, qualcuno questa battaglia la deve fare. Sì. No, nonostante ciò lei dice, io politicamente invece la Lega, questa è la posizione, non eleggerà nessuno al CDA della RAI, neanche la società civile come ha fatto il PD. Le piace questa idea che il PD dice? Ma neanche un po', nel senso che mi spieghi la differenza che c'è tra i due che sembrano siano quelli che voterà il PD e tutti gli altri, non so, il professor Sabino Acquaviva è meno... Vabbè, ne ha scelti due. E quindi è il principio che è sbagliato, perché nel momento in cui sono tutti qualificati i curriculum che sono stati presentati, hanno molti delle peculiarità, magari qualcuno anche più di quelli che sono poi stati individuati dalla cosiddetta società civile. Il problema vero è che nel momento in cui uno viene nominato è condizionato da chi lo nomina. Sì, sì. Non vorrei che facessero lo stesso la Tobagi, lo stesso percorso che ha fatto, che ne so, il professor Zaccaria. Quindi lei dice, e poi dopo è parlamentare della RAI, e dopo esattamente 2 mesi che si è dimesso me lo sono trovato in Parlamento nelle file del PD. Senta, le devo chiedere questa cosa adesso del Trota, perché è uscita sui giornali. Allora, Renzo Bossi, il Trota, deve rispondere di diffamazione nei suoi confronti, cioè Sì. Cioè perché Renzo Bossi ha scritto, lei su Facebook scrisse dimettiti, credo, no? E lui le ha risposto che l'ha accusata di aver intascato credo 400.000 euro e lei l'ha querelato. Infatti se ne stanno occupando gli avvocati. Ma come mai? Cioè finisce proprio così a diffamazione? Ma come Renzo Bossi, il Trota, il futuro della Lega sembrava... Questa è una valutazione che non devo fare io. Il futuro della Lega lo decide il congresso della Lega, no? Ci mancano pochi giorni. Beh, è una brutta storia, cioè finita proprio a, come dire, a carte giudiziarie. E come mai? Beh, inevitabile nel momento in cui si dicono delle falsità. Quindi è una questione che risolverò personalmente attraverso gli avvocati. No, questo sì, ma i suoi rapporti quindi con Umberto Bossi adesso come sono? Sinceramente sono costantemente a contatto con Umberto Bossi, come con tutti gli esponenti della Lega Nord con cui lavoro ormai da tanti anni e continuerò a farlo. Però lei ha querelato il figlio di Renzo no, sì, certo, no, ma per carità, avrà avuto i suoi buoni motivi, ci sarà un'inchiesta. Non è che ci sarà, c'è già l'inchiesta, sì, è stato interrogato. Non ci metteranno neanche tanto a concluderla, dopodiché verrà ripristinata la verità e certificata la verità dei fatti. Ma lei cosa chiede? Soldi? Cosa chiede? Un risarcimento danno? No, ho chiesto più. I soldi, come è già stato più volte detto, il mal tolto dovrà essere restituito, ma non si tratta di certo del rapporto tra me e Renzo. Ma vi siete più parlati? No, immagino di no, perché... No, il signor Renzo Bossi non lo vedo dalle triste notte vicende. Le triste notte vicende. Avrà mai un futuro nella Lega, secondo lei, Renzo Bossi? No, mai. Non spetta a me dirlo. La Lega è cambiata tantissimo in questi mesi ed è un partito in cui la militanza conta più di tutto. Le decisioni vengono prese nei congressi. Mi dica un'ultima cosa, mi dica sì o no, anche se so che adesso quando si parla di Umberto Bossi c'è sempre questo massimo rispetto, per carità. Umberto Bossi invece potrà essere il futuro della Lega, il leader della Lega, il presidente, si potrà candidare addirittura? Mancano pochi giorni per capirlo. Mancano pochi giorni per capirlo. Lei che dice? Ci saranno oltre 500 congressisti e migliaia di militanti a fare un gessago sabato e domenica tra 2 settimane con il figlio. Vabbè, ma secondo lei, secondo lei è opportuno oppure è meglio, visto che è cambiata molto la Lega? Ma noi siamo evidentemente in una fase di cambio generazionale. La Lega sta cambiando, sta mutando la pelle, si sta adeguando ai tempi, sta adeguando anche la sua battaglia politica, quelle che sono le problematiche quindi che dobbiamo affrontare e risolvere. Quindi questo credo che verrà fotografato da qui a pochi giorni.